Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi parliamo dell'Italia, anzi delle città italiane, con un libro che può anche servire per aprire la stagione delle strenne, un libro molto bello, oltre che appassionante. Si intitola Il grande racconto delle città italiane, l'autore Attilio Brilli, che è un grande esperto di letteratura di viaggio, ed è pubblicato dal Mulino, 622 pagine, ricchissimo di illustrazioni, e costa 50 euro. Questo libro innanzitutto ci fa riscoprire il gusto del viaggio come scoperta e come argomento letterario. Molte città, infatti, scrive Brille, sono tutt'uno con l'opera letteraria che vi si svolge, per esempio la Dublino di Joyce, senza la quale sarebbe inconcepibile il viaggio ironico dell'Ulisse moderno, scrive l'autore. Poi c'è l'Italia, in particolare nelle sue tante capitali, scoperte da tanti scrittori di tutto il mondo. Questi, scrive l'autore, appartengono a quel genere di personaggi errabondi per i quali il viaggio è un'avventura intellettuale, una ricerca appassionata, un racconto in cui centri urbani e paesaggi attendono l'avvento di personaggi fittizi che sappiano tracciarvi i loro percorsi, tesservi le loro trame ed elevarli al rango di mete. Questi viaggiatori perciò fanno una descrizione particolare. La loro descrizione, aggiunge Brilli, è un'opera in cui si fondono due momenti diversi fra loro: la registrazione di un percorso e la percezione della fisionomia del luogo. E per noi, aggiunge, protesi al recupero del carattere delle città italiane, è interessante verificare come la compagine stilistica di una città, il suo aspetto d'insieme, i suoi elementi architettonici più o meno omogenei, assurgano simboli e miti, elementi costitutivi della narrazione. L'introduzione di Brilli si conclude col richiamo ai traumi che le città italiane hanno subito e continuano a subire. Naturalmente, proprio per la differenza di storie che caratterizza ciascuna di queste città, ognuna di esse è una capitale diversa dalle altre, quindi Brilli le raggruppa in alcuni gruppi: le città metropolitane, ossia le sette maggiori, poi le città caratterizzate da una particolare forma o da un andamento labirintico, per esempio Siena o Pienza, poi le città collinari, quelle sul mare, per concludere con quelle morte, con le città sepolte, cioè Pompei e Cerveteri. E adesso in questo viaggio ci facciamo accompagnare dall'autore. Buonasera ad Attilio Brilli. Buonasera, buonasera. Attilio Brilli, lei sottolinea una caratteristica particolare del viaggio in Italia. Scrive all'inizio del suo libro: dall'Ottocento in poi si viaggia in Italia in maniera immaginaria, ricercando luoghi dove sperimentare un genere di vita inesorabilmente perduto, dove sondare le vestigia di un universo scomparso e con esse le sopravvissute radici di una civiltà in via di estinzione. In questo modo, insomma, i viaggiatori in Italia si facevano un'idea tutta idealizzata, completamente al di fuori di quella che era la realtà dell'Italia? Ah, indubbiamente, indubbiamente. E d'altra parte era questo l'elemento di grande attrazione. E direi che questa sensazione di una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, perché il viaggio in Italia è stato anche questa grande illusione tutto sommato, si accentuava tanto più si scendeva, diciamo, lungo lo stivale, insomma, fino all'estremo sud. Erano viaggiatori che venivano molto spesso, penso agli inglesi, da una tradizione di economia industriale, di incipiente industrializzazione del paese, e quindi era in qualche modo andare alla ricerca di un Eden perduto. Era questo in definitiva che cercavano in Italia. E di qui poi la delusione quando trovavano invece una modernità che faceva capolino anche nelle città italiane. Però trovavano tante città tutte diverse. Lei parla di estrema individuale originalità data dalla morfologia del territorio, dagli eventi storici, dall'arte dei fondatori e dalla genialità dei costruttori, che suggeriva approcci diversificati, al punto che, scrive anche, erano le città stesse che in qualche misura selezionava i viaggiatori. Ah, senza dubbio, nel senso che diciamo le città collinari, per esempio, prevedevano un certo tipo di attenzione alla morfologia del territorio. Si accorgevano allora questi viaggiatori, si accorgono anche oggi, che erano queste le ultime città europee che avevano una splendida veduta, che offrivano di sé splendide vedute, laddove in altri luoghi sono inesorabilmente scomparse. Altrove è chiaro che l'Italia si stava e si sta adeguando a parametri di carattere europeo, se non globali, continentali e mondiali, con le vedute scomparse. Io parlo di città metropolitane e vedute scomparse, perché al di là delle città marinare, le altre città metropolitane sostanzialmente hanno cancellato le loro vedute. Non voglio arrivare agli estremi di Lévi-Strauss, che diceva: in fondo le città oggi la prima cosa che offrono di sé sono le loro discariche. Infatti questo aspetto della modernità, lei ha fatto un cenno anche poco fa, è un aspetto ricorrente nel suo libro. Qual è stato il rapporto dei viaggiatori in Italia con questo tema della modernità? Era più un trauma o una sorpresa di trovare che anche l'Italia poteva essere moderna? Ma diciamo che era entrambe le cose, dipende poi dal paese di provenienza e in definitiva anche dalla loro cultura. Ho trovato sempre molto illuminante e molto umana la battuta che fanno a Roma 1883 un grande grafico americano che si chiama Pennell, Joseph Pennell, che era poi illustratore dei libri della Wharton, dei libri di Harry James, quindi di Howells, quindi grande illustratore di libri, il quale dice: noi arriviamo qui in Italia, arriviamo a Roma e vorremmo che Roma fosse rimasta come al tempo dei papi, in definitiva, la Roma barocca, la Roma tutta interna alle mura aureliane, e non tolleriamo che Roma si modernizzi. Ma noi viviamo in un paese, nel nostro paese, dove abbiamo le nostre comodità, la nostra modernità, e come possiamo pretendere che qui il mondo sia rimasto fermo, immobile, a secoli addietro? Ecco, è chiaro che c'è un atteggiamento ambivalente: per un verso il dolore per la Roma scomparsa, è la Roma drammatica e traumatica del rinnovamento dopo l'arrivo della capitale, lo sconquasso vergognoso per certi aspetti, abolizione e distruzione delle ville cardinalizie e nobiliari, eccetera. Però poi non dimentichiamo che questa gente deve pur vivere in qualche modo e non si può pensare di venire qui a cercare l'Eden perduto, perché noi in fondo a casa nostra le nostre comodità ce le abbiamo. È una battuta, se vuole, molto terra terra, ma molto umana, molto drammatica poi, come sono gli americani alla fin fine. Restiamo su questo aspetto, quello degli scrittori moderni, perché l'Italia non è solo Grand Tour. Ecco, gli scrittori moderni come affrontano questa immersione nell'Italia rispetto ai loro predecessori? Ma direi sono rimasto sorpreso, e le aggiungo che sto proprio adesso lavorando proprio sul Novecento, questa persistente interesse e questa persistente fascinazione che esercita l'Italia in, direi, persone ovviamente di fine sensibilità, insomma. Facciamo due esempi concreti. La Napoli vista per esempio da Walter Benjamin, oppure per converso, con tutt'altra differenza, la San Gimignano dello stesso scrittore. E sono veramente dei luoghi che io vedo con occhi totalmente diversi attraverso le loro pagine, oppure le bellissime pagine di Rudolf Borchardt su Volterra. Ecco, vado un po' di palo in frasca, ma anche per spiegare veramente la diversità dei luoghi e come oggi ancora si mantenga vivo questo senso, questa, direi, pulsazione della bellezza che si avverte in Italia. Questo vale anche per gli italiani, naturalmente, sedentari per tradizione, quello che vuole, però poi certe città vanno lette anche attraverso gli italiani. Penso che la Orvieto di Malerba, per esempio, ecco, che mi dà dei parametri di riferimento straordinari. Poi ci sono anche gli scrittori che probabilmente non sono stati in Italia ma che l'hanno mitizzata. Per esempio c'è un sorprendente richiamo a Shakespeare a Milano. Sì. Ma talvolta, le città immaginate, e poi ce lo insegna Calvino naturalmente, sono seducenti, più seducenti di quelle vere. Voglio dire con questo, lo Shakespeare a Milano è interessante perché viene suggerito proprio da un viaggiatore inglese del Novecento, E dice: io sono qui appoggiato ai navigli, e mi chiedo, ma quanto sono sciocchi quegli studiosi di Shakespeare che lo prendono in giro quando dicono che il Duca Prospero partiva da Milano e si imbarcava a Milano per Venezia. Dice, non è che Shakespeare non fosse stato a Milano. Shakespeare sapeva benissimo della rete dei canali leonardeschi, probabilmente, e per certi aspetti avevo intuito questa capacità di rinnovamento della città, questo aprirsi verso orizzonti nuovi, in questo caso verso il mare. Ecco, allora evidentemente le città immaginate, ricostruite attraverso l'immaginazione, possono rivelare delle strade, degli aspetti assolutamente insondati. Grazie ad Attilio Brilli, autore del Grande Racconto delle Città Italiane. Buona serata. Grazie a lei veramente, arrivederla. E il tema del rapporto tra città e letteratura troviamo nel libro curato da Raffaele Giannantonio, che è un architetto, che si intitola Racconti e città tra prosa e architettura, pubblicato da Franco Angeli, 172 pagine, 23 euro. Qui la letteratura e l'arte diventano non strumento di rilettura della città, ma un loro prodotto. Scrive nella prefazione Vito Bonito: lo spazio urbano è stato ed è ancora un luogo di elaborazione culturale e artistica e argomento essenziale di tale produzione. Spazio dell'invenzione e oggetto di reinvenzione. Nel libro troviamo vari saggi di vari autori: Claudio Veragnoli, Raffaele Giannantonio, Antonio Alberto Clemente, Augusto Ciuffetti, Dante Maria Nacci, Maria Melgren, Pasquale Tunzi, Aldo Castellano, Sandro Ranellucci e Filippo Angelucci, che danno appunto questa lettura con alcuni saggi che testimoniano di questo rapporto. Per esempio troviamo la testimonianza di Gabda, che fece da reporter negli anni 30 all'inaugurazione delle strutture turistico-alberghiere di Campo Imperatore e poi si spinse fino all'Aquila, due realtà che lesse da ingegnere e da letterato. Oppure troviamo l'impresa del medico svedese Axel Munthe, che ricostruì una bellissima villa a Capri con un'impresa che fu insieme architettonica e letteraria. E ancora un cenno alle possibili architetture ispirate alla lettura delle Lezioni americane di Italo Calvino. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Cambiamo adesso prospettiva. Ricordo che venerdì prossimo si conclude sulla F la serie televisiva Ross Poldark, che ha avuto un successo straordinario in Gran Bretagna, dove è stata prodotta per la seconda volta tra l'altro dalla BBC e dove è stata vista da 8 milioni di spettatori. A chi si sia appassionato a questa serie o chi l'abbia persa, segnalo il libro dal quale tratta questa serie, che appunto ebbe un enorme successo quando uscì anche nell'edizione cartacea, e cioè Ross Poldark, di cui è autore Winston Graham, morto quasi centenario nel 2003, era uno scrittore inglese adottato in particolare dalla Cornovaglia, diventato popolarissimo appunto per questa saga, cui Poldark dà il nome. Pubblicò 12 romanzi di questa serie ambientati tra il 1783 e il 1820, appunto in Cornovaglia, che diventarono ben presto dei classici dei romanzi storici. Questa, che compare in Italia, comprende il primo volume della serie, che abbraccia il periodo 1783-1787, pubblicato da Zonio, col titolo appunto Ross Poldark, è tradotto da Matteo Curtoni e Maura Parolini, 432 pagine, 18,50 euro. Poldark è un classico eroe romantico maturato all'esperienza della rivoluzione americana, dove naturalmente ha combattuto contro gli insorti delle colonie. Al suo ritorno in Inghilterra trova una situazione ben diversa da quella che si aspettava e si dovrà dare molto da fare per assicurare un nuovo corso alla sua vita, una vita che sarà ricca di colpi di scena anche sentimentali. E la Cornovaglia in questa saga diventa un microcosmo che sintetizza e simboleggia un mondo in grande fermento, dominato però da sentimenti eterni come l'ambizione e come l'amore. Tra i fermenti di quegli anni ci furono naturalmente anche quelli intellettuali e culturali, che porteranno pochi anni dopo la fine di questo primo volume della saga alla Rivoluzione francese, la quale troviamo descritta in maniera molto chiara, anche grazie alle immagini, giorno per giorno, nel libro di Roberto Paura, che è un ricercatore all'Università di Perugia, guida la rivoluzione francese, pubblicato da Odoia, 638 pagine, 26 euro. Una guida, dicevo, dunque uno strumento rivolto a tutti per capire antefatti, sviluppi, eventi, protagonisti di una pagina che ha davvero cambiato il corso delle idee e della storia. A differenza della rivoluzione russa, di cui l'anno prossimo celebreremo il centenario, una rivoluzione che secondo l'autore non sembra dirci oggi più niente sul mondo in cui viviamo, quella francese a oltre 200 anni di distanza ci indica tutta una serie di problemi irrisolti. E quindi l'autore fa di tutto per aiutarci a orizzontarci con le immagini, i rimandi, le schede di approfondimento e anche i richiami al dibattito mai esaurito sulla rivoluzione francese, sulla sua eredità. In particolare quella su un tema tornato di grande attualità, mutatis mutandis, ossia il complesso rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, tra elite e popolo, tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale. Ecco, tutti questi elementi, assieme anche alle tavole di concordanza tra il calendario rivoluzionario e quello attuale che troviamo alla fine, ci aiutano ad addentrarci nei meandri della rivoluzione francese. Torniamo alla televisione con un libro di un grande scrittore umoristico che fu anche un grande giornalista e critico anche televisivo, Achille Campanile, vissuto tra il 1899 e il 1977, di cui Bompiani ripubblica La televisione spiegata al popolo, 464 pagine, 15 euro, che è accompagnata da un'introduzione di Aldo Grasso e dagli scritti di due mostri sacri. La prefazione di Indro Montanelli è una nota di Oreste Del Buono. Questo volume di Campanile raccoglie gli scritti scoppiettanti di intelligenza e di ironia sulle trasmissioni che Campanile recensì tra il 1958 e il 1968. Scriveva queste critiche l'autore per l'Europeo, di cui egli era una delle penne più famose. E secondo Umberto Eco, Campanini avrebbe fatto una critica inventiva che parte, scriveva Eco, dall'opera come pretesto per elaborare diari di lettura, racconti di impressioni ed umori, considerazioni culturali. Quindi una storia della televisione, ma soprattutto uno spaccato della cultura e della società italiana. Sentiamo per esempio dal libro queste righe su un'antica e mai sopita illusione, quella di veicolare in TV la cultura e in particolare i libri. La TV, bisogna renderle giustizia, ha anche delle rubriche serie, a contenuto culturale. In prima linea, libri per tutti. Così che ogni mercoledì sera, alle 22.30, tutti al bar. Si intende al bar con televisore. È la parola d'ordine di tutti gli intellettuali, persone notoriamente sprovviste di apparecchio televisivo, e particolarmente di tutti gli scrittori, che sperano di trovare in questa la loro rubrica. Viva il cielo! La TV non trasmette soltanto canzonette e varietà, o indovinelli e giochi tipo oca o tombola. Non concede la propria preziosa attenzione e le proprie serate soltanto ai cultori del cinema o a quelli dello sport. Ma una fettina di programma la riserva anche ai libri, ai poveri libri di cui nessuno s'occupa e che per tanti secoli sono stati i soli a far compagnia agli uomini, i veri amici dell'uomo, altro che il cane. Ai libri che danno tanto e ricevono così poco in cambio. Ed ecco, il mercoledì sera, poco dopo le 10, la città suona tutta del ticchettio fitto, frequente, molteplice, di passettini frettolosi che sodono da tutte le parti, come una cascatella di perle in un bacile d'argento. Sono i letterati che, intabarrati in ampi ferraioli, sgusciano guardinghi da portoncini bui, svoltano agli angoli consunti dalla tramontana e dai gomiti dei passanti. Si infilano in vicoli lubrici, raggiungono a passi di lupo porte illuminate da pallide insegne su vetri appannati dai vapori interni. Scompaiono in piccoli locali dove, nell'ombra livida di salette interne, s'affoldano una volta tanto come fantasmi davanti allo spettrale rettangolo del video i volti ansiosi, emaciati dalle lunghe veglie di quelli che ai libri dedicano la vita. Facce che non s'erano mai viste davanti a un teleschermo. Fingono di non conoscersi fra loro. Si guardano in cagnesco. Ed è irresistibile il prosieguo di quest'articolo nel quale Campanile immagina una trasmissione nella quale il presentatore annunci il libro della settimana. Prometto di non ispirarmi a queste righe di Campanile, il quale scrive: questa volta è un libro di viaggi. e così ci ricolleghiamo, dico io, alla prima parte della trasmissione. Va a Ruba, ha un successo di vendita strepitoso. Eccolo qua, prende dalla scrivania un volume, lo esamina, lo mostra ai telespettatori con voce baritonale. Si intitola Orario generale delle ferrovie dello Stato. È un'operetta preziosa che non dovrebbe mancare nella biblioteca di qualsiasi persona colta. Si raccomanda per la sua veste e il suo contenuto e non soltanto ai bibliofili, ai cultori del libro come oggetto d'arte. Ispirato al lavoro televisivo, poi è il libro di uno scrittore, documentarista e autore televisivo che si chiama Vanni Roncisvalle. Il libro si intitola La luna, mamma Rai e il sorriso della Gioconda, è pubblicato da Pungitopo, 534 pagine, 25 euro, e qui ritorna anche di nuovo il tema del rapporto tra viaggio e letteratura attraverso una miniera di mete visitate professionalmente da Roncisvalle, reporter e narratore. Qui incontra tanti protagonisti della cultura, per esempio Montale, tanti altri mostri sacri, non solo della letteratura, rievoca momenti ed eventi della sua lunga carriera e fa delle riflessioni in particolare sull'evoluzione della cultura occidentale. E a questo punto... Il confettino. Comincio con un'indicazione ai genitori. Chiude l'11 dicembre a Lucca, Palazzo Ducale, una mostra curata da Enrico Stefanelli che presenta una selezione di una grande artista della fotografia rimasta sconosciuta per anni e che per sbarcare il lunario faceva la babysitter e che abbiamo scoperto solo dopo il casuale rinvenimento nel 2007 dell'enorme materiale fotografico che aveva prodotto. E Vivian Mayer, vissuta tra il 1926 e il 2009, di cui a Lucca vedremo una selezione particolare, quella di alcuni scatti che la fotografa fece in occasione di un viaggio in Francia. E allora potete raccontare la storia della Mayer ai piccoli con un libro di Cinzia Ghigliano, si intitola Lei, Vivian Mayer, è pubblicato da Orecchio Acerbo, 18 euro, e il libro fa rivivere la passione segreta e travolgente di una tata che abbiamo scoperto essere una grandissima artista. Prima di salutarci vi ricordo poi che il 7 dicembre comincia a Roma e durerà fino all'11 la fiera del libro Più libri più liberi, la fiera nazionale della piccola e media editoria, che si svolgerà al Palazzo dei Congressi a Roma, giunta la 15ª edizione. Il titolo dell'edizione di quest'anno è Sono tutte storie. Troverete qui oltre 400 editori, più di 300 eventi in questo appuntamento che è diventato un classico della stagione. Con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.